tempo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato. Allora, lo staff di Dedicato è un po' sparpagliato in questi giorni perché c'è chi si sta preparando agli esami di terza media, c'è chi si sta preparando alla maturità addirittura, gli adulti sono momentaneamente assenti, fuggiti, chi segue i propri figli nella preparazione degli esami, chi invece è fuggito completamente in giro per l'Italia appena finita la scuola con figli che magari non hanno esami. E chi invece non ha figli è comunque fuggito, nel senso che non è in studio, e quindi noi anche oggi, per la terza puntata e ultima, ci ricatapultiamo a Eufonica 2025 e diamo ampio spazio alla classe di chitarra del liceo musicale Lucio Dalla di Bologna, perché abbiamo ospite il professor Tarsitano, che è il docente della classe di chitarra, e poi alcuni suoi allievi che hanno chiacchierato con noi. Alcuni li conoscevamo già, sia per la loro musicalità, sia per i loro percorsi, perché avevamo già fatto un po' di interviste anche l'anno scorso con loro, e ci raccontano le evoluzioni. E comunque, ecco, abbiamo la classe di chitarra, ma non solo, perché abbiamo ospite anche un batterista, abbiamo diverse novità. E ci piace dare spazio a questa classe perché? Perché il professor Tarsitano ha questa orchestra di chitarre, e ci sono veramente tantissimi allievi del liceo musicale, e questa orchestra di chitarre fa un repertorio particolare, perché non è solo sulla chitarra classica, ma va a miscelare diversi stili e generi musicali e anche diverse tecniche della chitarra. Quindi ci racconteranno un po' quello che succede all'interno di questo gruppo, questa orchestra di chitarre, e partiamo proprio dal professor Tarsitano, che dà voce alla sua creatività e insomma a questo gruppo del liceo musicale Lucio Dalla. Eccoci, buongiorno, siamo con il professor Tarsitano del liceo musicale Lucio Dalla di Bologna e con la sua classe di chitarristi, quindi sì. Buongiorno, ci racconti un attimo questo progetto? Ho appena ascoltato un concerto con tantissime chitarre sul palcoscenico, con degli arrangiamenti molto interessanti. Ci racconti come nasce questo progetto? Certamente, di fatto il lavoro che faccio con i ragazzi settimanalmente durante l'anno scolastico appartiene ad un'ora che è dedicata nel curriculum dei ragazzi scolastico, per cui è un'ora settimanale nella quale c'è proprio l'orchestra di chitarre contemplata, alla quale partecipano tutti i ragazzi che studiano primo strumento chitarra, perché tra le specialità strumentali che si possono studiare al liceo musicale, che sarebbero tutte quelle esistenti, i ragazzi possono, diciamo, oltre lo strumento principale di studio, anche studiare il secondo strumento. In particolare questo gruppo che ha sentito oggi, l'orchestra di chitarra, è formata da tutti i ragazzi che studiano chitarra come primo strumento. In verità poi c'erano anche altre aggiunte, perché abbiamo accompagnato ad un certo punto della nostra esibizione una cantante appartenente appunto a una delle due classi di canto che abbiamo nella nostra scuola, e anche un percussionista, e poi un bassista che studia chitarra di primo strumento ma di secondo strumento faceva basso, e quindi nell'orchestra ha suonato con questo strumento, per l'appunto. È un progetto enorme e molto interessante per i ragazzi, perché comunque la musica di insieme da questo punto di vista crea delle sinergie che nessun'altra materia, diciamo, crea, quindi è importantissimo quello che loro riescono a fare di interazione a livello musicale, più che altro perché ognuno di loro appunto ha una sua specializzazione, quindi chi sulla chitarra elettrica, chi sulla chitarra classica, folk, e quindi insomma immagino non sia facile metterli insieme, ma poi quando si arriva al dunque sia anche molto bello per loro come esperienza. Assolutamente, come ha visto appunto prima, non c'erano solo sul palco delle chitarre classiche, anche se la disciplina che insegno io è chitarra classica, ecco, quindi ci sono ragazzi che studiano la chitarra a 360 gradi, non solo la chitarra classica, ma fanno esperienza e sono arrivati da noi che già conoscevano altre forme musicali espressive della chitarra e quindi altri generi, e sfruttiamo queste capacità dei ragazzi proprio per inserirle con arrangiamenti all'interno del gruppo, perché fare musica bisogna farla, a mio avviso, a 360 gradi. La musica è condivisione, un'esperienza, è forse la disciplina che più di tutte permette il fare squadra, l'essere insieme e fare esperienza comunitaria, e quindi questo facciamo. Bravissimi, grazie. È stato un piacere. Abbiamo ascoltato un estratto di un brano di Morricone eseguito dalla Guitar Ensemble proprio a Eufonica 2025. La qualità dell'audio, perdonateci, non era il massimo, ma era difficilissimo registrarli in maniera consona, quindi chiediamo scusa agli esecutori e anche ai nostri ascoltatori, però penso che si sia capito molto bene qual è, insomma, la qualità di questo ensemble, di questo gruppo di chitarre. E effettivamente gli arrangiamenti e le armonie e tutto il lavoro tecnico che viene fatto all'interno di questo gruppo è veramente importante a 360 gradi a livello musicale, quindi bravissimi ragazzi e bravo il professore che li segue e li educa musicalmente. Quindi ora iniziamo ad ascoltare alcuni dei ragazzi. Il primo che ascoltiamo è Mattias Mannocchia, che è un chitarrista, diciamo che lui è un chitarrista elettrico, quindi insomma elettrico da tutti i punti di vista, perché è veramente esplosivo. Quando hai a che fare con Mattias è una meraviglia, perché è fantastico anche caratterialmente, da tutti i punti di vista. Io lo conosco bene ormai, è una persona deliziosa e devo dire che ha sempre delle cose da raccontare, delle novità nel suo percorso, nonostante giovanissimo. Adesso ci racconterà lui che cosa sta succedendo nella sua vita, e poi andiamo ad ascoltare anche dei brani di questi ragazzi, perché abbiamo un po' di interviste ma anche un po' di musica che ci piace e ci interessa ascoltare. Siamo qui con Mattias Mannocchia e quest'anno di nuovo a Eufonica con te. L'anno scorso ci siamo incontrati con il tuo gruppo, Elod, con i ragazzi, che abbiamo qui poi anche Marco, il batterista, quindi dopo ascoltiamo anche lui. È passato un anno, Mattias, cosa è successo in quest'anno? Un sacco di cose, mi dicevi prima. Sì, perché sono stato in America un mesetto, poi l'anno prossimo andrò a studiare alla Berkeley, al college in America, se va tutto bene con i permessi, con i visti, speriamo di sì, e per cui l'anno prossimo si parte per una nuova avventura. Allora, questa nuova avventura fa sì che tu finisca il tuo percorso al liceo musicale Lucio Dalla di Bologna, quindi sei in quinta, quest'anno c'è la maturità, e poi a Boston si parte di nuovo da capo. Come siete organizzati là? Come sarà la tua vita a Boston? Lo sai già? Hai già un'idea di come saranno gli studi, di come procederà la tua carriera da chitarrista? Ma più o meno una vaga idea sì, perché essendo stato due volte ho più o meno già avuto modo di apprendere come funzionano i corsi e tutto quanto. Poi ho la fortuna di essere lì con altri due, un mio compagno di classe e un altro ragazzo che veniva sempre al musicale, che è già lì da un anno, per cui diciamo che sarò anche in compagnia, per cui sarà una bella esperienza. Questi due ragazzi che sono con te sono dei LOD, giusto? Esatto. Tre dei quattro, ci manca il quarto, insomma. Come procede il vostro progetto LOD? Procede molto bene, adesso facciamo una decina di date, direi a giugno-luglio, prima di partire, tra la maturità e l'estate. Per non farci mancare niente, facciamo un tour così. E... Va bene, il percorso al liceo Dalla, come è stato questi 5 anni a scuola, come sono stati per te? Sono stati 5 begli anni, ho avuto la fortuna di incontrare un bravo professore di chitarra classica che mi ha supportato in tutto, anche negli studi al di fuori della chitarra classica, per cui bene, c'è un bel ambiente, dei gran bravi compagni di classe, mi sono trovato bene. Grazie Mattias. Ciao a tutti, buon ascolto. La mia positività confronto col mare soltanto spuma, se arriva c'è grasso che cola, acqua salata nella gola che mi fa sputare fuori le parole chiuse dentro mi ancora. Come sabbia mi divido fra granelli di sporcizia e di ricordi sparpagliati, mille amori e mille odori che disperdono nell'aria quell'aroma che mi porta nel passato. Ciò che è stato, posso solo costruire tutto ciò che è già bruciato. Ciò che è stato, non posso camminare sopra il suolo che ho già calpestato. Ombre, anche di notte. E abbiamo ascoltato Mattias Manocchia alla chitarra e Coccino alla voce. Prima dell'intervista con Mattias invece abbiamo ascoltato un solo di chitarra elettrica proprio di Mattias, quindi tanti complimenti ragazzo, perché avrai una strada musicale lunga e meravigliosa. Allora adesso andiamo ad ascoltare un altro dei ragazzi che frequenta la classe del liceo musicale Lucio Dalla di chitarra e si chiama Jacopo. Allora, adesso invece siamo con Jacopo Fiori, sempre del liceo musicale Lucio Dalla di Bologna, che è un chitarrista classico, quindi al contrario di Mattias ti sei dedicato a uno studio molto specifico sulla chitarra classica. Jacopo, ci racconti un po', anche tu sei in quinta e quindi anche tu alla fine di questo percorso. Ci racconti questi 5 anni e soprattutto il tuo rapporto con la chitarra, che credo sarà poi la tua professione, quindi una delle cose più importanti che stai facendo. Allora, io ho cominciato a studiare chitarra quando ero piccolo, ormai una decina d'anni fa, alla scuola popolare di musica Ivan Illich. Poi ho fatto le medie musicali, quindi mi sono iniziato alle medie a confrontarmi col mondo della chitarra classica. Ho avuto una bravissima professoressa che mi ha avvicinato ancora di più e mi ha spinto a fare l'esame di ammissione al liceo musicale. E poi diciamo che al liceo musicale è esploso il tutto, perché ho incontrato il prof Tarsitano che mi ha spinto a continuare e a coltivare sempre di più la mia passione. Adesso sto iniziando a fare qualche esame di ammissione per il conservatorio, spero che sarà quella la mia strada. Bene, sì, bene, la musica lo sai, l'impegno e la passione sono quello che contano, quindi sicuramente dai, la tua strada prosegue dritta e senza intoppi, perché vi ho sentito suonare, siete veramente molto bravi. Ieri, proprio ieri, siamo andati a Milano a fare il test di ammissione di teoria musicale. Adesso settimana prossima torneremo a Milano per fare l'esame pratico e poi da giugno in poi dovrò fare tutti gli altri esami, quali Modena, Cesena e Bologna. Spero di riuscire a trovare un bravo maestro che mi riesca a indirizzare poi nel mondo professionistico della chitarra classica. Perfetto, grazie Jacopo, ciao. Grazie a voi, ciao. Abbiamo ascoltato anche Jacopo Fiori alla chitarra classica in un estratto di un brano di repertorio di Fernando Sor, un brano insomma anche molto complicato, quindi complimenti Jacopo, e andiamo subito ad ascoltare un tuo compagno di classe che ci racconta anche lui il suo percorso sempre sulla chitarra classica. Allora, siamo invece adesso con Giacomo Tirapani, sempre della classe del professor Tarsitano, liceo musicale Lucio Dalla Bologna. Anche tu sei un chitarrista classico, giusto Giacomo? Sì, esattamente. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ci racconti anche tu un pochino, come gli altri ragazzi, il tuo percorso, come si è evoluto in questi anni, quando hai cominciato, e poi cosa vorrai fare nei prossimi mesi, anni, con la chitarra, perché sì, siete veramente molto bravi. Allora, un po' io ho fatto il percorso del mio compagno Jacopo Fiori, per cui per non ripetermi, adesso stiamo cercando di appunto gli eventuali esami in conservatorio, come diceva, stiamo provando più possibilità, perché comunque è molto soggettivo e particolare una scelta di un conservatorio e di conseguenza anche di un maestro. Bisogna essere in grado di creare un rapporto oltre che di una specialità tecnica, anche umana con il maestro, cosa che abbiamo avuto durante il liceo e questi 5 anni. Abbiamo avuto la possibilità appunto di confrontarci con l'insegnante, il professore Tarsitano, che ci è sempre stato a fianco e ci ha seguito molto bene. La scuola poi propone sempre per indirizzarci verso le nostre passioni e capire poi eventualmente ulteriori maestri. Con masterclass ci proponevano altri insegnanti, abbiamo avuto le possibilità di fare esperienze interne alla scuola con maestri celebri nel mondo chitarristico classico, quali Frederick Zigante, che insegna a Milano, e stiamo per l'appunto cercando di entrare lì, Andrea De Vitis, un altro chitarrista di questo panorama, certamente uno degli esponenti, che insegna a Salisburgo. Ok Giacomo, grazie. Ci vuoi raccontare anche tu brevemente come è nata la tua passione per la chitarra, quando hai cominciato e perché anche? Io ho iniziato a suonare chitarra molto piccolino, con l'idea di iniziare a suonare, fare accordi e probabilmente avvicinarmi nel mondo più che suona Mattias Manocchia, dunque chitarra elettrica, chitarra folk, e poi mi sono confrontato in realtà con un ambiente completamente diverso ed è stato poi amore a prima vista, per cui piano piano si è sviluppata questa passione che sto cercando di protrarre in avanti. Grazie Giacomo, ciao, in bocca al lupo per la maturità e per tutti i tuoi percorsi. Grazie mille. Thank you. Abbiamo ascoltato Giacomo alla chitarra classica in un brano di repertorio, La Cathedrale, bravissimo perché è veramente complicato, bravi ragazzi tutti, dei chitarristi eccezionali. E passiamo ora invece alla parte ritmica di questa orchestra di chitarre del Liceo Musicale Lucio Dalla di Bologna, perché abbiamo anche un batterista che è Marco e che noi conosciamo già perché è anche batterista di un gruppo che adesso lui ci racconterà anche gli sviluppi di questo gruppo che abbiamo già ascoltato l'anno scorso in un'intervista. E niente, ascoltiamo Marco, l'ultimo dei nostri ospiti di oggi. Eccoci con Marco Santosuosso, che anche lui abbiamo già ascoltato l'anno scorso insieme ai Load, perché è il batterista di questo gruppo, giovanissimo ma veramente molto bravi. Ciao Marco. Ciao Erika, tutto bene? Tutto a posto, molto bene. Ti ho sentito suonare con l'orchestra delle chitarre, quindi vedo che il tuo percorso al Liceo Musicale Lucio Dalla prosegue, ma è addirittura d'arrivo. Ci racconti un po' cosa è cambiato in questo anno che non ci siamo sentiti? Beh, innanzitutto partiamo dall'orchestra di chitarre. Infatti in questo anno ho iniziato una collaborazione col prof Tarsitano con vari progetti, sia di grandi ensemble come l'orchestra di chitarre che ensemble più piccoli per vari eventi. E inoltre appunto sto finendo il liceo musicale come i miei compagni di classe, ecco. Terminerò appunto quest'anno per poi partire con Mattias e con Leo appunto, il cantante dei Load, a Boston per il Berklee College. E non vedo l'ora infatti di approdare in questa nuova avventura, questa nuova esperienza. Però fino a quel giorno, ecco, continuerò a studiare ovviamente col mio insegnante Ivano Zanotti e anche con Mauro Gherardi. Da poco infatti ho iniziato con lui anche a studiare, ecco. Beh, insomma, hai detto due batteristi, mica da poco. Il nostro mitico big drummer, che comunque è anche sostenitore della nostra trasmissione, e poi vabbè Mauro Gherardi, chapeau, come dire. Quindi insomma gli studi proseguono qua finché poi, quanto starai a Boston? Quanto tempo state là? Allora, noi staremo 4 anni, però non saranno 4 anni pieni, perché faremo un po' avanti e indietro tra Boston e Bologna, ecco. E ovviamente nei tempi appunto nei quali saremo qua in Italia, suoneremo in giro appunto con i Load. Infatti è tornato giusto appunto oggi Leo da Boston, faremo una decina di date come ha detto Mattias in tutta Italia e vi aspettiamo numerosi, ecco. Ok, grazie, allora vi riaspettiamo in Italia. Ciao ragazzi, ciao Marco. Ciao Erika, grazie, buona giornata. Got it all worked out. Our head's a mess and we don't know anything. I light up, you sub it out. Try to keep me clean, I get dirty anyway. Hey, hey, she's playing every string on my old guitar. Hey, hey, heaven is the backseat of a rental car. Come on, play those songs. Tell me truths or tell me lies. Where are we headed for? Now we live in a moment till the moment's gone. Back out days and what I knew. Until we find that sunrise. Never gonna be too far. And heaven is the backseat of a rental car. We got no time to sleep. We're fuels the fire, it's a sweet insanity. I break down, you fix me up. Behind the wheel, we got one reality. Hey, hey, hey. Strumming to the rhythm of my favorite song. Hey, hey, hey, hey. No matter where I'm going, if she comes along. Picture. We got a window closing anytime soon. We broke a red light, you smoked the ticket. We took the back road by the light of the moon. I got a feeling, you got the picture. We got a window closing anytime soon. We broke a red light, you smoked the ticket. E questi erano i Load con Leo Mecconi, che ormai conosciamo benissimo e salutiamo, perché dopo questa puntata, insomma, siamo andati ad approfondire anche un po' quella che è la loro storia musicale. I Load, che l'11 di giugno del 2025 hanno aperto allo Stadio Dall'Ara di Bologna il concerto di Vasco Rossi. Quindi ragazzi, grande, grande, veramente il vostro percorso meraviglioso, chapeau, perché arrivare così giovani su un palco come quello di Vasco, veramente complimenti. E quindi grazie a tutti, veramente a tutti i nostri ospiti, a Jacopo, a Giacomo, a Mattias, a Marco, al professor Tarsitano e al liceo musicale Lucio Dalla di Bologna, perché fa un lavoro veramente importante a livello musicale, culturale sulla città, e non so come altro sarebbe sostituibile. Ecco, io devo dire la verità, quando avevo l'età di questi ragazzi non esisteva ancora il liceo musicale, e quindi insomma le scuole medie le frequentavi all'interno del conservatorio, e poi le scuole superiori invece erano un po' un problema per noi musicisti, perché la mattina si faceva scuola come tutti gli altri, però il pomeriggio si andava in conservatorio a fare le lezioni, ed era molto più dura far conciliare i due tipi di studi, magari completamente diversi l'uno dall'altro, mentre in un liceo musicale come Lucio Dalla di Bologna il percorso per i ragazzi è veramente molto molto interessante, perché è a 360 gradi e le materie di studio anche durante la mattina sono in alcuni casi musicali, in altri casi ovviamente no, perché abbiamo matematica, storia, italiano come in tutte le scuole, però devo dire che è un percorso di studi veramente completo e molto interessante. Quindi grazie a tutti i docenti e a chi si impegna per mantenere vivo questo liceo musicale della nostra città. Noi a questo punto salutiamo tutti i nostri ospiti e i nostri ascoltatori. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre mercoledì alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao!